Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in una seduta in cui le borse sono tutte leggermente positive di un punto percentuale. Oggi ci occuperemo del rapporto Istat sullo stato del paese, la parte chiaramente economica, ma anche di riforme. Le riforme chieste dalla Presidente Confindustria Emma Marcegaglia giovedì scorso nel corso dell'Assemblea di Confindustria. In primo luogo pubblica amministrazione e pensioni. Poco fa, nel corso della registrazione di Porta a Porta, è arrivata una non saprei se definire una doccia fredda, ma comunque un stop da parte del ministro Tremonti, il quale ha definito il sistema delle pensioni in Italia un ottimo sistema che sta in piedi bene. E che se si vuole migliorare lo si può fare non per soldi, ma per una logica generazionale. Quindi le agenzie hanno battuto, il sistema è ottimo, non serve una riforma per i soldi, per le risorse. Parleremo, dicevo, di riforme intese non solo come pensione pubblica amministrazione, ma anche come liberalizzazioni. Un rapporto infatti dell'Istituto Bruno Leoni segnala che vi è stata una botta e una battuta d'arresto soprattutto nel processo di liberalizzazioni del paese, tra l'altro è un processo che era partito in maniera già molto molto timida, ma su questo ci sono anche dei calcoli di quanto costi al paese Italia non avere attuato molte liberalizzazioni, circa 20 miliardi di euro. E tra l'altro alcune delle lenzuolate fatte dall'allora ministro Bersani hanno prodotto effetti concreti, per esempio l'abolizione dei costi fissi di ricarica per i cellulari ha fatto scendere il prezzo delle telecomunicazioni del 14%, così come hanno avuto effetti le liberalizzazioni dei farmaci. Ancora molto poco, comunque, come segnala oggi l'Istituto Bruno Leoni. Tra i temi chiaramente c'è anche Fiat Opel, giornata di incontri oggi tra i vertici Fiat e il governo tedesco, ne parleremo in apertura e poi nella seconda ora del programma. Come sempre, dicevo, anche i mercati finanziari. Mercati che dopo un avvio debole, grazie all'America che sta guadagnando il 2% quasi sul Dow Jones, il 2,5% sul Nasdaq, si sono ripresi l'1% al rialzo di Milano sui due indici e anche quello di Francoforte e Parigi. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le notizie in breve. Apre in calo New York il petrolio, $60,4 al barile, un meno 2%, mentre è tornato a salire, seppur di pochissimo, l'indice Euribor, ossia il costo del denaro, per il costo che pagano le banche per prestarsi denaro, insomma, diciamo, detto in maniera un po' imprecisa, l'Euribor a tre mesi è salito all'1,27%. E giornata cruciale, si diceva, per la Fiat nella trattativa tedesca. Oggi l'amministratore delegato Sergio Marchionne, assieme al vicepresidente di Fiat, John Elkann, ha incontrato la cancelliera tedesca Angela Merkel e il ministro dell'economia Gutenberg. Il governo tedesco ha detto che comunque mercoledì sceglierà quale offerta appoggiare e il ministro Gutenberg oggi ha smentito le indiscrezioni pubblicate ieri dal tabloid Bild, secondo cui avrebbe egli stesso bocciato le tre offerte. Domani, ha precisato Gutenberg, vi sarà una decisione preliminare sul futuro di Opel. E per quello che riguarda l'offerta Fiat, Gutenberg ha detto che Fiat deve ancora migliorare la sua offerta per Opel. L'offerta di Fiat è seria, non è male, ha aggiunto, ma va migliorata. Ma non è solo l'offerta Fiat a dover essere migliorata, secondo infatti il ministro dell'economia tedesco Gutenberg, tutte le offerte presentate per Opel dai vari concorrenti, che poi sono tre, devono essere migliorate per tutelare i lavoratori tedeschi. Sergio Marchionne, dopo l'incontro con Angela Merkel, ha detto: abbiamo avuto colloqui costruttivi, abbiamo illustrato il nostro piano e il governo tedesco è seriamente impegnato in questo processo. Quando poi però gli è stato chiesto come pensa Marchionne che si concluda la trattativa, ha detto: è diventata una lotteria, ma non dirò altro. Nel frattempo l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passera, ha detto di essere pronto a dare supporto finanziario al progetto della Fiat, quando si saprà poi l'esito della trattativa con il governo tedesco. Tra l'altro Intesa San Paolo è la banca che il Lingotto ha scelto recentemente come consulente insieme a Unicredit e a Goldman Sachs. Restiamo in Germania, ma in realtà per parlare di economia è arrivata infatti la conferma che nei primi tre mesi dell'anno il PIL tedesco è calato del 3,8% rispetto ai tre mesi precedenti, il dato peggiore dal 1970, a pesare soprattutto le esportazioni, quasi un 10% in meno, meno 9,7%, ma anche gli investimenti delle imprese, meno 7,9%. Ancora la Russia in seria, se non grave, difficoltà. Il PIL russo è in picchiata. Ad aprile ha fatto un meno 10,8%. Praticamente nei primi quattro mesi ha perso il 10% rispetto ai primi quattro mesi del 2008. E tra l'altro il deficit russo è schizzato al 9% del PIL contro il 7,5% che lunedì scorso era stato evocato dal presidente russo Medvedev. E sempre per quello che riguarda l'economia europea, questa volta però italiana, oggi dato di aprile sulle nostre esportazioni fuori dall'Europa, extra UE. C'è ancora un calo, meno 0,7% rispetto a marzo, il cosiddetto dato congiunturale. Il dato è chiaramente più brutto se si guarda un anno prima, l'aprile del 2008 siamo a meno 20% nelle esportazioni. Per fortuna comunque le importazioni sono calate ancora di più del 30%. E del 2,8% su base mensile, quindi il saldo è stato negativo tra importazioni e esportazioni per soli 76 milioni di euro, mentre ad aprile del 2008, nonostante le esportazioni fossero ben più forti, lo erano anche le importazioni, infatti la differenza era negativa in maniera ben più pesante, 1 miliardo e 774 milioni di euro. Ne parleremo nella seconda ora del programma. Va detto comunque che non c'è ancora una ripresa, c'è però un rallentamento del calo, nel senso che le esportazioni a gennaio rispetto a dicembre avevano fatto un meno 16%, poi a febbraio c'era stato un leggero recupero, a marzo rispetto a febbraio c'era stato un meno 4%, ad aprile rispetto a marzo c'è stato un meno 0,7%, quindi sta rallentando il calo delle esportazioni. Di pensioni, lo dico a chi scrive, parleremo tra qualche minuto, come di non solo di pensioni, di riforme, incluse le liberalizzazioni in senso ampio. Il ministro dell'economia Tremonti oggi non ha parlato però solo di pensioni nella registrazione della puntata di Porta a Porta, perché è intervenuto questa mattina anche all'assemblea di Confcooperative e ha detto in sostanza che stanno rallentando le richieste di cassa integrazione. Questo è sicuramente un buon segnale. E poi ha detto che insomma esistono anche delle risorse grazie all'accordo con le regioni. Ascoltiamolo. Grazie a un accordo con le regioni sono a disposizione 1 miliardo e 300 milioni di ore per la cassa integrazione. Finora ne sono state tirate meno di 300 milioni. Questo ci fa valutare la realtà in evoluzione in termini di relativa prudenza. Noi riteniamo che quei dati siano migliori delle nostre previsioni, perché messi da parte 1 miliardo e 300 milioni di ore, utilizzati meno di 300 milioni di ore, vuol dire che la drammatica attesa evoluzione sull'occupazione ha avuto un andamento che certo va fatto oggetto della più assoluta considerazione, però non c'è stato un tiraggio immediato e anzi abbiamo segni di rallentamento nella richiesta di prenotazione per ora. E comunque, ed è un impegno credo di tutti, se ce ne fosse bisogno sarà messo di più, perché nessuno su quel settore può essere lasciato indietro ed è fondamentale a interesse di tutti la coesione sociale. E poi il ministro Tremonti è tornato a bacchettare le banche. Nuova frecciata. Lo ha fatto più recentemente, sempre nel corso della registrazione di Porta a Porta. Ha detto non credo alle statistiche fatte dall'ABI, quelle sui costi dei conti correnti e sul livello dei tassi attivi in Italia soprattutto. Non credo alle statistiche fatte dall'ABI, credo di più a quelle degli artigiani di Mestre. Già in mattinata il ministro Tremonti aveva invitato il sistema bancario a fare ancora più, c'è molto da fare per la precisione, ha detto Tremonti, a sostegno delle imprese. Io credo che sul settore bancario molto ancora c'è da fare, perché molti dati indicano il ritorno della finanza fine a se stessa. Aumenta la raccolta, ma non aumentano corrispondentemente gli impieghi alle industrie, alle imprese, all'economia reale. Aumentano gli impieghi finanziari. C'è qualcosa che forse va fatto oggetto di ulteriore considerazione e attenzione da parte di tutti noi. Tutto il vecchio capitalismo è stato, e vado a chiudere, è stato dominato dall'ideologia dello shareholder value, il valore per l'azionista. Ma siamo sicuri che il valore unico per cui lavora un'impresa è l'interesse dell'azionista? C'è l'interesse dell'azionista, c'è l'interesse dei manager, ma c'è anche, fondamentale, l'interesse dei lavoratori e l'interesse del sistema nel suo complesso. E troppo, per troppo tempo, queste categorie sono state rimosse. E ha risposto al ministro Tremonti l'ABI, che ha detto i dati che abbiamo diffuso la scorsa settimana durante il Liquidity Day sul livello dei tassi in Italia, quelli che all'ABI risultano più bassi rispetto alla media europea, sono di fonte Banca Centrale Europea e Banca d'Italia. Sempre a margine dell'assemblea di Confcooperative, l'intervento anche del segretario del Partito Democratico Dario Franceschini, il quale ha accusato il governo di non adottare misure concrete contro la crisi. Tutti sollecitano il governo ad adottare misure concrete per affrontare la crisi, per aiutare chi non ce la può fare da solo ad aspettare la fine della crisi globale. Tutti chiedono fatti, dopo le parole, dopo le promesse. Purtroppo il Presidente del Consiglio è molto impegnato nella campagna elettorale e nelle sue vicende personali, mentre gli italiani, al di là di chi hanno votato un anno fa, aspettano misure concrete. Noi continuiamo e continueremo a fare proposte per chi ha bisogno di un sostegno da parte dello Stato, per i disoccupati che perdono il posto di lavoro e non hanno forme di cassa integrazione, per le piccole e medie imprese che non hanno credito dalle banche, non hanno liquidità. Continueremo a farle, almeno votino le nostre proposte se non vogliono mettere in campo misure concrete come sarebbe dovere di chi governa. Purtroppo abbiamo un governo che non governa. Così il segretario del PD Dario Franceschini. Nel frattempo l'Istat oggi ha presentato alla Camera la 17ª edizione del rapporto annuale sulla situazione del Paese. Una famiglia su 5 in difficoltà economiche di vario grado, da non poter affrontare le spese impreviste sino a non avere i soldi per comprare cibo e vestiti. Stiamo parlando di 5.300.000 famiglie. Ma poi per fortuna ci sono anche 10 milioni di famiglie, ossia 41 famiglie su 100 che non presentano alcun disagio, e un altro 36% che vive in condizioni di relativo benessere. Però l'Italia è uno dei paesi europei con la maggiore diffusione di situazioni di reddito relativamente basso. Una persona su 5 è a rischio di vulnerabilità economica, dice l'Istat. E poi fotografa l'identikit del nuovo disoccupato, è uomo tra i 35 e i 54 anni, risiede nelle regioni del centro-nord, ha un livello di istruzione non superiore alla scuola superiore, alla licenza secondaria, è sposato o convivente. Ma il dato sulla disoccupazione più importante è quello che vede per la prima volta nel 2008 aumentare dopo 13 anni il numero dei disoccupati più del numero degli occupati. Gli occupati infatti l'anno scorso sono stati 183.000 in più e i disoccupati 186.000 in più. Però c'è qualche notizia anche positiva, un'impresa su quattro di quelle che esportano, cioè stiamo parlando di quasi il 30% delle imprese che esportano, 6.500 imprese, riesce a battere la crisi collocandosi sui mercati internazionali, soprattutto quelle medio piccole. E poi gli inviti fatti dal presidente dell'Istat Luigi Biggiari illustrando il rapporto annuale. Presidente dell'Istat, che è nostro ospite, buonasera. Buonasera Biggiari. A lei. Allora, rapporto in chiaroscuro, era ovvio che il 2008 non potesse essere un anno da ricordare con entusiasmo, figuriamoci il 2009. Ma insomma, la situazione, da quello che ho capito io, lei me lo deve confermare, che voi fotografate come più preoccupante è quella sul fronte occupazione / potere d'acquisto? Beh, non necessariamente. Cioè, noi abbiamo messo in evidenza che l'occupazione per il momento ha tenuto anche in relazione alle, diciamo così, strategie messe in atto almeno da gran parte delle imprese, nel senso che le imprese hanno l'interesse a mantenere operai qualificati o dipendenti con professionalità che hanno formato all'interno delle imprese piuttosto che liberarsene. Quindi prima di attuare un licenziamento, che pure ci sono stati, cercano o di utilizzare la cassa integrazione guadagni o di trasformare rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale. Quindi da questo punto di vista ancora forse gli effetti della crisi, che sono stati molto profondi, non è detto che siano arrivati. Però certamente quello che invece emerge è che ci sono imprese che hanno razionalizzato, che stanno lavorando molto bene, continuano ad esportare anche in un momento in cui le esportazioni sono diminuite, che significa che hanno capito come ci si deve affrontare la crisi. Per quanto riguarda poi il fatto dei redditi, attualmente, come del resto è messo in evidenza nel rapporto, potenzialmente c'è circa il 20% delle famiglie che potenzialmente sono vulnerabili, ma quelle che già ora sono non solo vulnerabili, ma sono, diciamo, al limite della povertà, sono il 5%. Gli altri sono potenzialmente, perché? Perché se la crisi dovesse continuare, è evidente che o perché gli diminuisce una fonte di reddito o perché hanno difficoltà nell'aumento magari della spesa per determinati beni alimentari o di altro tipo, è chiaro che queste, essendo potenzialmente vulnerabili, poiché hanno un bilancio fisso, e questo è il punto fondamentale, che non possono modificarlo dal punto di vista delle entrate come vogliono, è chiaro che queste possono anche diventare relativamente povere. Voi avete anche suggerito, diciamo, alcune misure da prendere, perché il rapporto ISAT guarda, cioè è una fotografia del 2008 ma con l'occhio puntato sul 2009. Avete detto che dalla crisi c'è anche l'occasione per rilanciare lo sviluppo e avete indicato come ruolo principale dello Stato quello di proteggere i lavoratori e le famiglie, quelli che rischiano di essere colpiti in maniera più drammatica, più pesante dalla crisi, chiedendo però che vengano evitati gli interventi a pioggia. In sostanza, io non è che le voglio far dettare, presidente Biggiari, l'agenda economica, ci mancherebbe, però visto che le risorse sono poche e limitate, dove dovrebbero concentrarsi e avete una stima di per quanto tempo queste risorse dovrebbero essere operative? Cioè, quando... Il problema vero è che, come ha detto lei, ci sono delle imprese che hanno razionalizzato e che quindi stanno espellendo anche i lavoratori. Allora però non ne possono essere colpiti solo i lavoratori. Queste imprese vanno aiutate e quindi non possono essere interventi a pioggia a tutte le imprese, ma il credito va ridato alle imprese che sono indebitate, perché erano indebitate, non è che tutto un tratto gli possiamo levare il credito perché c'è la crisi finanziaria. Come del resto però non bisogna penalizzare le imprese invece eccellenti, perché se si riduce il credito e poi magari non si danno incentivi a quelle che invece esportano, a quelle che fanno innovazione, a quelle che si mettono in settori di prodotti innovativi tipo nell'ambito dell'ambiente, energia e così via, è chiaro che lo sviluppo non ci può essere. Ma d'altra parte, ecco la nostra affermazione, noi abbiamo individuato i gruppi di famiglie a rischio e non vorremmo, e perlomeno suggeriamo alla collettività, attenzione, queste cose sono giuste, è giusto che le imprese razionalizzino, è giusto che si facciano degli interventi strutturali, ma è anche giusto che per un certo periodo di tempo si dia protezione a coloro che invece possono essere espulsi in questo momento dal mercato del lavoro, in modo che con lo sviluppo possano poi rientrare e rientrare persone che sono qualificate. Un'ultima domanda, presidente Biggiari, che cosa immaginate e intendete per protezione di queste famiglie, di questi lavoratori, e secondo voi fino a quando dovrebbe durare questa protezione? Cioè quando presumibilmente immaginate... La seconda domanda è più difficile rispondere, perché noi non facciamo previsioni e quindi è difficile. La prima invece le posso rispondere cosa intendiamo. Intendiamo che devono essere intanto aumentati i livelli di protezione anche con riferimento alla social card o con altri interventi che riguardano i redditi minimi di sussistenza. Noi abbiamo fornito un'ampia documentazione, non tanto nel rapporto ma in un documento che è uscito poco tempo fa, che riguarda le soglie di povertà assoluta. Sono 330 soglie di povertà che possono indicare a livello territoriale abbastanza dettagliato, a livello di tipologia di famiglia, di tipologia del capofamiglia, di età dei componenti eccetera, quali sono i fabbisogni minimi sia di beni alimentari sia di servizi eccetera. Allora, se vogliamo garantirle, le famiglie di qualunque tipo, se hanno bisogno di certi beni, quei beni e servizi gli devono essere garantiti. A quanto mi risulta, il governo sta già utilizzando, perché ce li ha chiesti, questi dati per fare interventi adeguati. Grazie Presidente Biggeri, perché anche dal vostro rapporto, ripeto, è sul 2008, però emerge una situazione difficile, ma va detto non drammatica. Lo dico anche chi scrive al 349-238-6666, ogni tanto c'è qualcuno che vorrebbe o tutto nero o tutto bianco. La realtà, la vita, più che la realtà economica, non è mai fatta di neri e di bianchi, ma anche di molti grigi. In questo caso le difficoltà ci sono e voi le avete evidenziato, ci sono però anche le imprese, una su quattro, che riescono a esportare, anzi aumentano anche le quote nonostante la crisi. C'è un rischio su che un certo numero di famiglie, ossia un 20% sul totale, possa avere difficoltà, non le ha ancora, ecco perché la rete di protezione deve andare avanti fino a quando non si vedranno i segnali di ripresa. Le stime sono fine 2009, inizio 2010, queste le faccio io, ma citando i vari organismi internazionali. Grazie al Presidente dell'Istat Luigi Biggeri, nostro ospite in apertura del programma. E se da un lato il tema è appunto che tipo di politiche di welfare, che tipo di assistenza lo Stato deve dare anche alle imprese e ai lavoratori che dovessero essere malauguratamente espulsi dalle imprese, resta sullo sfondo il tema e l'appello a fare le riforme arrivato giovedì scorso dalla Presidente Confindustria Emma Marcegaglia. C'è una parola che nel dibattito della politica economica Italia è sparita: liberalizzazioni. Questa è una grande riforma, è una riforma importante, ma è sparita. Allora è urgente riprendere il cammino interrotto delle liberalizzazioni nei trasporti, nelle comunicazioni, nelle professioni, nell'energia, dove è stato varato con il ministro Scajola, grazie anche a Confindustria, una nuova riforma della borsa elettrica, ma dobbiamo continuare. Ma soprattutto le liberalizzazioni vanno fatte nelle società pubbliche a livello locale, dove stiamo assistendo all'avanzata impressionante del neostatalismo. Noi lo continuiamo a dire, ma non si blocca questo meccanismo, va avanti. Eh sì, perché nell'intervento di Emma Marcegaglia non c'è stato solo l'appello alle riforme, quelle più strutturali, pubblica amministrazione e pensioni, c'è stato anche quello sulle riforme, le cosiddette liberalizzazioni. Allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento il direttore del Centro Ricerca e Studi, Istituto Bruno Leoni. Buonasera. Buonasera. Dottor Carlo Sagnaro. Lei ha curato il rapporto in cui si fotografa l'indice delle liberalizzazioni. Dopo il metro, la pubblicità, ci racconti come vanno, o meglio come non vanno, queste liberalizzazioni, perché si è molto discusso di pensioni in questi giorni e abbiamo letto in apertura le anticipazioni del ministro Tremonti a Porta a Porta, che ha detto che il sistema pensionistico italiano va bene così com'è, non serve una riforma per far soldi. Ma pochi si ricordano che secondo una stima diffusa dal Bocconi il costo annuo per noi cittadini, per la collettività, delle mancate liberalizzazioni ammonta a circa 20 miliardi di euro. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di liberalizzazioni e poi di borsa. Borsa che ha chiuso in rialzo dell'1,6% a Milano, più 1% Parigi, più 1,4% Francoforte, più 1,2% Londra. L'America guadagna adesso 2 punti percentuali. Allora, dicevo che l'Istituto Bruno Leoni ha presentato il rapporto sulle liberalizzazioni 15 settori presi in esame. Tra l'altro, a chi scrive male liberalizzazioni a cosa servono? Beh, le liberalizzazioni molto timide, secondo alcuni osservatori, fatte dall'allora ministro Bersani, hanno portato, per quello che riguarda l'abolizione dei costi fissi di ricarica per i cellulari, l'indice dei prezzi delle telecomunicazioni è sceso del 14%. La liberalizzazione delle vendite di farmaci da banco ha portato all'apertura di 3.000 nuovi punti vendita e riduzione dei farmaci da banco, quelli senza ricetta. Certo, poi sulle tariffe minime per avvocati, notai, commercialisti, liberalizzazione dei servizi pubblici locali, lì è tutto bloccato, Renato in Parlamento, gli ordini professionali in questo, diciamo, hanno una loro ragione d'essere, cioè nel tutelare chi è dentro l'ordine, lo dice uno iscritto all'ordine dei giornalisti, quindi non ho timore di sembrare irriverente. Allora, com'è la situazione, dottor Stagnaro, dei 15 settori che voi avete preso in considerazione? Quali sono liberalizzati, quali sono abbastanza liberalizzati e quali sono invece ancora in una situazione così da corporazione medievale? Prego. Io, riprendendo quello che lei diceva prima della pausa pubblicitaria, direi che anche per quel che riguarda le liberalizzazioni non abbiamo di fronte un panorama fatto di bianchi e di neri, ma abbiamo un panorama fatto di grigi per lo più, con poco bianco e poco nero. In generale l'immagine del paese è quella di un'economia aperta a metà, dove processi di liberalizzazione sono stati cominciati in alcuni casi con coraggio e successo, come per esempio sul mercato elettrico, dove sebbene le cose non siano perfette abbiamo raggiunto un buon grado di competitività e soprattutto stiamo osservando una dinamica positiva negli anni. In altri casi invece il paese è rimasto drammaticamente indietro. Si diceva prima servizi pubblici locali, sentivo il passaggio della Presidente Marcegaglia. Noi in particolare ci siamo concentrati sul trasporto pubblico locale, che abbiamo valutato liberalizzato attorno poco sopra il 40%, cioè di fatto molto poco liberalizzato. In alcuni casi siamo addirittura sotto, per i servizi idrici abbiamo valutato il 32%, per le infrastrutture autostradali il 29% e così via. Il dato generale che però registriamo quest'anno è quello di una generale assenza di cambiamenti, cioè è vero che le liberalizzazioni in qualche maniera, quelle che abbiamo sono quelle che avevamo, non abbiamo osservato nell'arco del 2009 significativi cambiamenti se non in un paio di casi, in particolare sul mercato del lavoro, dove si è probabilmente tornati allo spirito della legge Biagi, ma non abbiamo osservato dei grandi cambiamenti, e dove li abbiamo osservati sono essenzialmente il frutto di dinamiche autonome, di dinamiche inerziali, cioè dei settori che erano già stati avviati sul settore della competizione e che quindi quasi automaticamente hanno continuato a ingranare la marcia giusta, ma senz'altro non perché vi sia stata lo scorso anno o nello scorso paio di anni una volontà politica in questa direzione. Questo è sicuramente un punto di partenza rilevante che conferma analiticamente quello che diceva Emma Marcegaglia l'altro giorno. Mi faccia i nomi e i cognomi, dottor Stagnaro, cioè quali sono i settori liberalizzati e quali sono invece quelli appunto medievali, chiamiamoli così? Tre settori relativamente più liberalizzati, oltre al mercato elettrico, 77% che ricordavo, direi il trasporto aereo, che abbiamo valutato al 68%, in questo caso pesa moltissimo il fatto che il trasporto aereo è in larga misura governato da direttive europee, quindi noi osserviamo a livello nazionale un fenomeno che però ha una portata più ampia. Ci siamo occupati quest'anno di televisione e abbiamo trovato un dato abbastanza positivo, 67%, così come non negativo è il dato che abbiamo individuato sui mercati finanziari, che abbiamo valutato liberi al 61%. Per andare invece all'altra parte della classifica, quella delle Cenerentole, della competizione, abbiamo sicuramente i servizi idrici valutati al 32%, in questo caso principalmente pesa l'assenza di una normativa armonizzata a livello nazionale e la presenza costante di soggetti normalmente controllati dagli enti locali che operano in una sorta di buio normativo e regolatorio. Piuttosto basso è anche il valore che abbiamo riscontrato per le telecomunicazioni, 39%, seppure in crescita rispetto all'anno scorso. Per le infrastrutture autostradali abbiamo valutato 29%, in questo caso pesa molto negativamente l'incertezza che grava sul settore e il continuo interventismo dei governi che continuamente rivedono i termini delle concessioni, delle regole del settore per scopi che esulano dalla tutela e dalla promozione della concorrenza. Per cui in realtà, cioè, i settori li ha elencati, stranamente c'è anche quello elettrico. Un'ultima domanda prima di salutarci, lo chiedono gli ascoltatori al 349-238-6666, ma il rapporto liberalizzazione barra bassi costi per la collettività è automatico, perché il mercato elettrico sarà anche liberalizzato, ma non è che noi si veda tutti questi vantaggi nella bolletta, Beh, la liberalizzazione non determina di per sé una riduzione dei costi, dei prezzi in valore assoluto, determina una maggiore efficienza nei meccanismi competitivi e quindi a parità di altre condizioni, e questa è un'espressione che vorrei sottolineare 3 o 4 volte, una riduzione di costi. Durante il periodo che ha succeduto la liberalizzazione, che ha seguito la liberalizzazione del mercato elettrico, che data alla fine anni 90, primi anni 2000, c'è stata anche un'esplosione dei prezzi del petrolio, a cui sono agganciati i prezzi di tutte le altre materie prime energetiche, che si è riversata sui prezzi dell'elettricità. Quello che possiamo dire è che quella quota di prezzo che è attribuibile non alle materie prime ma alla dinamica competitiva è sicuramente oggi ridotta a quello che era in passato ed è sicuramente oggi inferiore a quello che sarebbe in assenza di liberalizzazione, cioè senza liberalizzazione noi l'elettricità la pagheremmo ancora di più. Quindi, diciamo, scorporata la componente che riguarda il prezzo del petrolio, che nulla c'entra con le liberalizzazioni, anche nel mercato elettrico lei ci dice la liberalizzazione, come in altri settori, porta, se non nel brevissimo, nel medio termine, a costi più bassi. La concorrenza dovrebbe portare in generale a costi più bassi, lo dico a chi scrive. Dopodiché, insomma, sono costi anche di sistema. Se è vero quello che dice la Bocconi, non abbiamo dubbi in merito, 20 miliardi di costo per la collettività di un'assenza di concorrenza in molti settori, che sono appunto pubblica amministrazione, autostrade, mercati finanziari, ordini professionali, trasporto ferroviario, servizi idrici, mercato del lavoro, sono tanti, tanti soldi che poi noi paghiamo tutti i giorni laddove non c'è concorrenza. Grazie al direttore dell'Istituto Bruno Leoni, che ha condotto questa ricerca, Carlo Stagnaro. Giornata positiva oggi in borsa, dopo un avvio un po' più incerto. Le borse non tutte chiuse in rialzo di almeno un punto percentuale. Parigi più 1, Francoforte più 1,3, Londra più 1,1. L'America sta guadagnando il 2,1 sul Dow Jones e il 3% sul Nasdaq. Euro sempre forte, a quota 1,40 sul dollaro. In Italia Mibtel più 1,5, S&P Mib più 1,6%, con il balzo di UbiBanca più 7,3%. Bene anche Atlantia più 4,5, come Bulgari più 3,5 ed Eni più 3,3%. Bene anche Mediolanum più 2,90 e Fiat più 2,5 come Alleanza. Il 2,2 lo guadagna Telecom Italia, il 2% Geox e Campari, ma anche le generali. L'1,70% è il rialzo di Tenaris e di Unicredit, ma anche di Ansaldo STS e di Italcementi. Chi ha perso di più oggi? Monte dei Paschi meno 2,3, Fondiaria meno 2, Mondadori meno 0,80, Unipo meno 0,6, come la Popolare di Milano, mezzo punto percentuale il calo di Parmalat. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Intanto una risposta a chi ce lo chiede. Dal 1 giugno gli indici Mibtel e S&P Mib andranno in pensione. Il mitico Mibtel non ci sarà più, la fusione tra la borsa italiana e la borsa di Londra infatti farà creare un nuovo FTSE MIB che sarà l'indice più importante, l'indice di riferimento. E al posto dei vari Mibtel, Midex, Max, MIB vi sarà un nuovo indice che prenderà comunque anche il posto del MIBTE, si chiamerà FTSE Italia All Share, quindi tutte le azioni dell'indice FTSE Italia. Chiusa l'informazione di servizio, andiamo con i titoli. Monte dei Paschi da un lato e UbiBanca dall'altro. Sì, guarda, oggi banche assolutamente contrastate, mentre il Monte è andato giù, Ubi si è risvegliata riscattandosi soprattutto sul finale. Non ci sono motivazioni ben precise, c'è stato un risveglio soprattutto che si è determinato sul finale insieme al resto del mercato e evidentemente sono state rotte certe soglie tecniche che hanno amplificato poi il movimento al rialzo delle UbiBanca. UbiBanca che comunque nelle settimane scorse erano rimaste un po' più ferme rispetto ad altri titoli bancari. Quindi nessun motivo particolare, mentre su Fiat, dopo alcune sedute di incertezza anche per le indiscrezioni che arrivavano dalla Germania, oggi il mercato torna a comprare. Assolutamente sì, i titoli hanno fatto più 2,5 sul finale, accelerando ovviamente insieme anche alla borsa. Domani sera si attende appunto l'esito per le trattative di Opel, infatti lo stesso governo tedesco ha detto che intende prendere una decisione per domani. Per adesso tutto è aperto, come ha detto anche lo stesso ministro dell'economia tedesco, Zu Guttenberg. E intanto oggi ci sono invece stati degli incontri molto importanti per Fiat, infatti Guttenberg ha incontrato il vicepresidente di Fiat John Elkann e poi sempre Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo, si è recato in Germania per incontrare gli esponenti dell'esecutivo tedesco. Ancora, Tiscali, oggi sul Sole 24 Ore era presente la notizia che Soru ha conferito le sue azioni a un patto di sindacato per favorire il risanamento delle aziende e quindi lasciare operare anche le banche. Il titolo come si è mosso? Il titolo è andato bene, anche se sul finale poi ha un po' rallentato il passo. Diciamo c'era molta attenzione questa mattina, il titolo andava in controtendenza, poi ha chiuso con un progresso del 3,29%. Comunque il mercato giudica positivamente la decisione che è stata presa, proprio perché appunto lo stesso Renato Soru si è impegnato ad approvare qualsiasi decisione che prenderanno i vertici della società al fine di favorire il risanamento dell'azienda. Comunque poi va rammentato che si sta avvicinando la data in cui Tiscali dovrebbe presentare il piano industriale e anche il piano di ristrutturazione del debito, visto che l'amministratore delegato Rosso, proprio in occasione dell'aumento di capitale e della cessione degli asset in Gran Bretagna, aveva indicato come data per la presentazione del piano del gruppo inizio giugno. Altri titoli, mi riferisco a Impregilo, in qualche modo si collega alle ispezioni fatte dalla Guardia di Finanza all'inceneritore di Acerra, no? Sembrava tutto a posto, poi scopriamo che invece... Vabbè, prego, no. Esattamente, infatti diciamo che i titoli oggi sono stati un po', sono andati in controtendenza, poi sul finale appunto hanno girato al rialzo insieme alla borsa, d'altra parte il rialzo diciamo è meno consistente, meno 0,89%, il mercato si interroga infatti su quelle che saranno le conseguenze, sul fatto che la Procura di Napoli sta facendo nuovi accertamenti proprio nel fascicolo aperto in materia di smaltimento dei rifiuti. Peraltro sempre più su Impregilo poi ci si interroga anche sul fatto che pare che appunto entro i prossimi giorni, entro la prossima settimana, potrebbe arrivare l'accordo sul patto di sindacato che riunisce i soci di maggioranza che sono raggruppati nella società che sta a monte dell'azienda e che si chiama IGLI. Il patto comunque scadrà il prossimo 12 giugno. In rafforzamento anche gli energetici e Telecom Italia, Eni più 3,3%, Telecom più 2,2%. Tra i titoli migliori e i peggiori abbiamo visto anche in assoluto, quindi non solo quelli dell'S&P MIB, abbiamo visto salire De'Longhi più 15,5%, immagino forse per l'ondata di caldo, ma correggimi se c'è qualche altra notizia. Acea più 7,20%. Exor più 5,4. Tra i peggiori invece Pirelli Real Estate meno 5, Acque Potabili meno 4,3%, il gruppo Monriff meno 8,6%. Bene oggi tutto il settore energetico. Sì, oggi si sono risvegliati, come hai detto tu, tutte le compagnie energetiche. Eni ha fatto addirittura oltre il 3%. Su Eni c'era anche un report positivo di Barclays che ha permesso di riaccendere i riflettori sulla compagnia del cane a sei zampe. E comunque anche nel resto d'Europa il sottoindice, diciamo, del comparto energetico è stato quello che ha vantato una delle migliori performance sul vecchio continente, con un progresso di oltre l'1% per tutti i titoli del settore. Grazie Eleonora Micheli. Dopo il GR parleremo del dato di oggi sul nostro export fuori dall'Europa, che mostra un rallentamento nel calo continuo. Lo dico chi dice non fate sempre gli ottimisti, ma che ottimisti? Meno 0,7, meno 20 anno su anno. Va fatto notare che questo calo che continua ormai da mesi, perlomeno sull'export fuori dall'Europa, si sta in qualche modo riducendo. Questa è la notizia buona, ma sempre di un meno 0,7 mese su mese stiamo parlando. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Molti sms che sono arrivati ancora sulle liberalizzazioni. Devo dire che tuttora insomma, nonostante le contestazioni e le liberalizzazioni, i dati di fatto dimostrano che portano a minori costi per il sistema. È inutile continuare delle volte anche polemizzare. L'altra notizia riguarda appunto le dichiarazioni del ministro Giulio Tremonti, che parlando porta a porta ha detto del sistema delle pensioni italiane è un ottimo sistema, sta in piedi bene. Se lo si vuole migliorare, lo si deve fare non per avere più soldi, ma per una logica di generazione, di patto generazionale, quindi non una riforma per avere maggiori risorse a disposizione. Sempre in tema di pensioni, però, quello che è emerso oggi sui giornali è abbastanza incredibile. Dai controlli effettuati dall'INPS negli ultimi due mesi sulle pensioni di invalidità è emerso che una su 10 è falsa, con punte di una ogni 5 in Sicilia e in Sardegna. Cioè ci sono 2.600.000 pensioni di invalidità, di cui appunto 260.000 false, con un danno anche per chi invece ne ha bisogno della pensione di invalidità. La spesa totale per le pensioni di invalidità è di circa 13 miliardi di euro, e quindi si fanno presto i conti, almeno un miliardo di euro, anche qualcosa di più, verrebbe risparmiato dalla lotta alle pensioni false di invalidità. Chiaramente un miliardo di euro non è poca cosa con i tempi che corrono. E allora il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua, oggi nel nostro GR Extra Large, intervistato da Alessandro Tedesco e Simone Spezia, ha spiegato innanzitutto quali siano le regioni dove il fenomeno è più accentuato. Purtroppo non ci sono grandi sorprese. Le regioni dove c'è la percentuale più alta sono le regioni dove c'è stata una maggiore, diciamo, generosità nel concedere le pensioni. Sono la Campania, la Sardegna, la Calabria, la Sicilia. In queste regioni noi ci siamo concentrati di più sui controlli e le percentuali sono infatti quasi vicine al 20% di pensioni revocate. Quindi una percentuale così alta perché avete fatto più controlli, quindi in proporzione la stessa percentuale troveremo nelle altre regioni o no? O effettivamente c'è una concentrazione maggiore? C'è una concentrazione maggiore, però l'attesa che ne abbiamo sul campione a fine anno è di più del 10%, mantenendo il risparmio che ci siamo impegnati ad avere di circa 100 milioni di euro l'anno. Presidente, diamo anche i virtuosi, quali sono le regioni migliori? La Lombardia, alcune regioni del nord, la Val d'Aosta, le Marche, insomma, ci sono regioni dove per adesso la percentuale è molto bassa, però c'è anche una macchia di leopardo nell'inizio delle verifiche, quindi essendo iniziate solamente da due mesi scontiamo anche un po' di rallentamento nel fornire da parte delle ASL fascicoli per fare poi le nostre ulteriori verifiche. Fino ad ora quante pensioni di invalidità avete revocato e se ci sono dei casi un po' emblematici? Le pensioni revocate sono già più di 10.000. Casi emblematici non ne abbiamo, se non quelle nel momento in cui viene revocato, significa che non era vero il presupposto per il quale era stato elargito nel passato. questo qui non vuole essere solamente un momento per scovare i finti invalidi, ma ho preso un impegno con il governo e con il Parlamento di proporre massimo un mese una proposta anche per revisionare questo sistema, perché altrimenti continuare a inseguire questa cosa è anche un aspetto triste della vicenda, soprattutto per chi ha veramente bisogno. Eh sì, perché oltre al danno economico per il paese anche la beffa nei confronti di chi della pensione di invalidità ha veramente bisogno e ci mantiene delle volte anche parte del budget familiare. Cambiamo tema perché, come annunciavamo inizio programma, oggi è uscito anche il dato sul nostro commercio con l'estero, sulle nostre esportazioni fuori dall'Europa. La caduta rallenta, ma una chiara inversione di tendenza ancora non si vede, almeno per quanto riguarda lo scorso aprile, ultimo dato diffuso dall'Istat sulle esportazioni italiane fuori dall'Unione Europea. A soffrire con un meno 27% sono in primo luogo le vendite verso gli Stati Uniti, che restano il nostro principale partner commerciale al di fuori del vecchio continente. Ancora più marcata la discesa dell'export verso la Russia, precipitato del 42% rispetto all'anno prima, mentre, sebbene in calo, gli acquisti di Made in Italy tengono nei paesi OPEC, dove la flessione si è fermata a un meno 7%. Spostandosi verso Oriente, il quadro non cambia. Le esportazioni verso il Giappone sono scese del 16%, quelle verso l'India del 22%. Unica ma significativa eccezione la Cina, che in aprile ha aumentato gli acquisti di prodotti italiani di oltre l'8% rispetto all'anno prima. Il calo delle esportazioni di aprile si è fatto sentire su tutti i settori, a cominciare dai tradizionali comparti di forza del Made in Italy. La meccanica ha registrato una flessione dell'export del 14% rispetto all'aprile 2008, le automobili addirittura del 32%. Il mese scorso è stato difficile anche per il polo della moda, con le vendite fuori dall'Unione Europea scese del 25%, sia per tessile e abbigliamento che per le calzature. Completano il quadro il meno 26% dei mobili, il meno 24% dell'elettronica e il meno 23% della chimica. A salvarsi è stato solo l'alimentare, con esportazioni nei paesi extraeuropei aumentate dello 0,4% rispetto all'anno prima. Questa quindi la scheda nostra con i dati per quello che riguarda il commercio fuori dall'Europa. Va detto appunto che il segno è ancora negativo, lo dico a chi scrive, meno 0,7 rispetto al mese precedente, meno 20% rispetto all'anno precedente, al mese dell'anno precedente. Va detto però che il rallentamento c'è nella caduta, perché le ultime variazioni erano di un meno 4% marzo su febbraio, o addirittura un meno 16% gennaio su dicembre di quest'anno. Ancora, per quello che riguarda l'andamento dell'export, va detto che la bilancia commerciale, siccome le importazioni sono calate ben più delle esportazioni, è risultata negativa solo per 76 milioni di euro, mentre l'anno scorso era negativa per 1 miliardo e 700 milioni di euro. Perché se crollano anche le importazioni è chiaro che poi delle volte l'effetto può essere tra virgolette benefico. Vorremmo però vedere tornare a crescere in maniera consistente le nostre esportazioni, non solo diminuire le importazioni da altri paesi. Minuti, ultimo tema di questa puntata di Focus Economia, in cui abbiamo parlato del rapporto Istat sullo stato del paese nel 2008, del rapporto anche dell'Istituto Bruno Leoni sulle liberalizzazioni mancate e mancanti, e anche delle dichiarazioni del ministro Tremonti che ha detto oggi durante l'assemblea di Confcooperative: le domande, le prenotazioni per la cassa integrazione stanno rallentando. Non ha detto che non vi siano, o che non stiano in termini assoluti crescendo, ma stanno rallentando, quindi insomma, sono piccoli segnali che non vogliono diffondere ottimismo, lo dico molto chiaramente, però insomma, i segnali cautamente positivi vanno raccolti. Dicevamo dell'ultima vicenda che trattiamo oggi, anche perché domani sarà una giornata cruciale per quello che riguarda possibile, probabile compratore di Opel, e la vicenda riguarda chiaramente le tre offerte arrivate per Opel. Le tre offerte le conosciamo, quali sono gli sviluppi di oggi? Oggi i vertici del Lingotto, sia Marchionne, Sergio Marchionne, e il vice presidente della Fiat, John Elkann, hanno incontrato sia il cancelliere tedesco Angela Merkel che il ministro dell'economia Gutenberg. Il governo tedesco scioglierà appunto solo domani la riserva. Abbiamo visto però alcune dichiarazioni già più tiepide rispetto a quelle molto fredde sull'offerta Fiat dei giorni scorsi. Gutenberg ha detto: l'offerta non è male ma va migliorata, e poi ha aggiunto: tutte le offerte vanno migliorate. Sergio Marchionne ha parlato di colloqui costruttivi, ma anche se ha definito una lotteria indovinare quale sarà l'esito della trattativa. Beda Romano, corrispondente Sole 24 Ore da Francoforte, buonasera. Buonasera. Beda Romano, sarai stanchissimo perché ormai non fai altro che occuparti di Fiat in questi giorni e degli sviluppi. Comunque, oggi Gutenberg ha anche smentito tutte le indiscrezioni della Bild, secondo cui lui stesso avrebbe bocciato le tre offerte presentate. Il nodo quale sembra essere? Quello dell'occupazione? È esclusivamente quello? Cioè del numero di licenziamenti, di esuberi previsti? No, credo che siano tre fondamentalmente i nodi e i criteri che il governo tedesco sta in questo momento utilizzando per valutare questi tre piani. Il primo naturalmente è quello degli esuberi, il secondo è il progetto industriale, quanto è solido e quanto è durevole, e il terzo criterio mi sembra essere quello dei costi. Il governo tedesco sa perfettamente che questa operazione richiederà denaro pubblico e vuole però essere esattamente certo di capire quanto debba spendere, e questi quindi sono i tre criteri che il governo sta utilizzando per valutare i tre piani. Mi sembra di aver capito che sugli esuberi, dall'indiscrezione che abbiamo visto, tutti parlano più o meno di 10.000. Sui soldi da chiedere al governo tedesco invece sembra essere più alta la richiesta Fiat, 5-7 miliardi rispetto a quelle dei fondi. Sul piano industriale, il fondo di private equity Ripple Wood è quello forse che ha un minor progetto industriale. Beda Romano, ne parlavamo anche ieri, però in questa vicenda, per carità, gli stabilimenti sono in Germania, il governo interviene, ma è come se il governo Merkel avesse trattato la Opel da azienda dello Stato, non da azienda controllata da General Motors a Detroit. Sì, per certi versi è così. Bisogna prima però dire che il governo, se è vero che il governo deve partecipare a questa operazione di salvataggio, il governo tedesco deve intervenire con del denaro pubblico, è anche giusto che in questo momento faccia parte Chiaro. Delle trattative finali. Su questo bisogna dire è un aspetto che posso capire. Opel sì, è una grande società europea, filiale di una casa madre americana. Però è molto radicata in Germania, è nata in Germania oltre un secolo fa, ha circa 50.000 dipendenti, di cui 25.000 in Germania, ha una decina di stabilimenti in 8 paesi, di cui 4 in Germania, e i principali fondamentalmente. Quindi che questa sia una vicenda molto tedesca, mi sembra abbastanza assodato. Credo che però abbia contribuito a trasformarla in una vicenda molto tedesca il fatto che in fine settembre in questo paese si voti, certo. E quindi inevitabilmente la vicenda è diventata più che industriale ed economica, finanziaria, anche politica. Ecco, proprio in tema di vicenda anche politica, condividi l'analisi di chi dice che il ministro dell'economia Gutenberg, che è un ministro da poco eletto, ne è uscito abbastanza vincente bloccando un SPD, cioè quindi i socialdemocratici, che chiaramente cavalcavano soprattutto le richieste di Gemetall, dei metalmeccanici tedeschi, cioè che ne è uscito come colui quale vuole far rispettare le logiche di mercato, le logiche industriali, non solo le logiche elettorali? Sì, sì, sì, assolutamente. Io non credo che dipenda in realtà dalla sua giovane età. Dipende fondamentalmente dal suo partito. Ci sono due anime che si stanno scontrando in questo momento nell'establishment politico tedesco. La prima anima è quella socialdemocratica, che in questo momento, pur di guadagnare voti e pur di tranquillizzare l'elettorato, è pronto a utilizzare denaro pubblico in questa circostanza per salvare la Opel. E poi l'altra anima invece è quella democristiana liberale, che invece è convinta che non si debba assolutamente salvare delle società che non siano di sistema e che bisogna fare molta attenzione a spendere denaro pubblico. E in questo paese, la Germania, questo elemento è un aspetto che conta nell'opinione pubblica tedesca. C'è un filone dell'opinione pubblica tedesca che è convinta che salvare le imprese quando non è prettamente necessario e spendere denaro pubblico in operazioni che rischiano di rivelarsi fallimentari, beh, sarebbe un grave errore. La Germania ha salvato all'inizio dell'anno Commerzbank, è una banca importante per il sistema finanziario tedesco, ma anche in quella circostanza il governo è intervenuto non senza creare polemiche, perché una parte dell'establishment era contraria a questo salvataggio. Beda Romano, in pochi secondi un'ultima domanda: domani esattamente quale sarà la cronaca della giornata? Vi sarà un incontro dei tre offerenti, quindi Magna, Fiat e Ripplewood, con i vertici economici del governo tedesco, e poi? Ma fondamentalmente ci saranno vari incontri durante la giornata, anche un consiglio dei ministri, perché è un mercoledì e il consiglio dei ministri si riunisce ogni mercoledì, e poi in serata ci sarà questa riunione a cui parteciperanno le varie parti in tavola, quindi i tre offerenti, General Motors, il governo tedesco, e lì ufficialmente il governo dovrebbe prendere una decisione sul partner definitivo. Il mio sospetto è che domani sera potremmo anche non avere una decisione definitiva sul partner da associare a Opel, e il governo tedesco potrebbe in realtà concentrarsi su un altro aspetto che sembra minore ma che è in realtà probabilmente cruciale. Se è vero che General Motors presenterà ufficialmente istanza di fallimento nei prossimi giorni, il governo tedesco vuole assolutamente essere certo che questa dichiarazione di fallimento non comporti un aggravio di costi per il governo e per le casse pubbliche attraverso Opel, perché Opel continua a far parte di General Motors. Chiaro. E il timore della classe politica è che l'istanza di fallimento di General Motors possa in un modo o nell'altro trasformarsi, ricadere su Opel. Esattamente, ricadere su Opel e poi sul governo tedesco. Grazie, staremo a vedere domani se arriverà o meno la notizia. Grazie a Beda Romano in collegamento con noi da Francoforte. Da Sebastiano Barisoni un augurio a voi in ascolto di buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.